Bronzo accanto a oro, udirono i ferri zoccoli, acciai sonanti. Impertunutunutunutunu. Schegge, levando schegge dall'unghia rocciosa, schegge. Orrore! E oro arrossì ancora. Una nota roca di piffero la sbloccò. Sbloccò, blum blu e la patina sul. Aurea chioma ingugliata. Una rosa danzante su serici seni di raso, semiramide. Trillante, trillante, ai dolores. Cucù, chi c'è nel cucù d'oro? Din pianse pietosamente a bronzo. E un richiamo, puro, prolungato e palpitante. Richiamo lenta a morire. Lusinga, morbida parola, ma guarda, le vivide stelle vaniscono. Note cinguettanti, risposta, o rosa semi. Ramide, sorge il mattino. Tinnulo, tinnulo in calessino tintinnante. Risuonò la moneta, pendola rintoccò. Devozione, sonné, non ti potrei, scatto di giarrettiera, lasciar, schiocco, la cloche, coscia schiocca, devozione, calda, tesoro, addio, tinnulo, blu, rimbombo di tonanti accordi, quando l'amore assorbe, guerra, guerra, i timpani, una vela, un velo ondulante sulle onde, sciolto, tordo zufolava, tutto è sciolto. Corno, cocco corno, m'apparì tutt'amor, ahimè, tuppete pieno, palpito pieno, a gorgheggiare. Ah, l'esca adescatrice. Marta andò. Ciac, ciac, ciò, ciac. Buondì non ha mai sentiti in vita. Sordo calvo Pat portò tampone, coltello asportò. Lunare richiamo notturno, lungi, lungi. Mi sento così triste. PS, così solo a fiorire. Ascolti! Lo spinoso e ritorto freddo corno marino. Gli prudon le. L'uno e per l'altro, scroscio e bombito silenzioso. Perle, quando lei. Rapsodie di Liszt. Lei non. Non. No, no, credeva. Lidilit. Chicchirichì, coccoricoc. Nero, cupo sonante. Dai, ben, dai. Attento mentre attendi. I, attende mentre tu i. Ma attendi? Giù, nell'oscuro centro terrestre. Oro in Ganga. Namine damine predicatore è. Tutti andati, tutti caduti. Minuscoli i suoi tremuli capelveneri di peli venerei. Amen, digrignò furibondo. Indietro, avanti indietro, una fresca clava protuberante. Bronzo Lidia presso Minadoro, accanto a bronzo, accanto a oro in ombra verde oceano, blum, vecchio blum, un picchio col chicchiric coccoricoc. Pregate per lui, pregate, brava gente, le sue dita gottose e schioccanti. Big benaben, big ben ben. Ultima semiramide d'estate lasciato Bloom fiorire, mi sento così triste e solo. Pui! Venticello zufolò, ui! Uomini leali, Lid, Ker, Kau, De e Dol, sì, come voi uomini, alzerete il cincolcia. Dove bronzo da presso? Dove oro da lungi? Dove zoccoli? Rrr, prr, cra, crandr. Allora, non prima di allora, il mio epriptafio sia scritto. Finito. Attaccare. Bronzo accanto a oro, la testa di Miss Deuce accanto alla testa di Miss Kennedy, da sopra le tendine dell'Ormond Bar udirono passare gli zoccoli vicereali, sonante acciaio. «È lei?» chiese Miss Kennedy. Miss Deuce disse sì, seduta con sua, eccetera, grigio perla e eau de Nil. «Squisito contrasto!» disse Miss Kennedy. Quando tutta vibrante, Miss Deuce disse agitata: «Guardi quello col cilindro!» «Chi? Dove?» chiese Oro agitata di più. «Nella seconda carrozza!» dissero le umide labbra di Miss Deuce, ridendo al sole. «Sta guardando, mi lasci vedere!» Dardeggiò Bronzo fino all'angolo estremo, schiacciando il volto contro il vetro in un alone di alito affannoso. Le sue umide labbra riderellarono. «Gli verrà il torcicollo!» a forza di guardare all'indietro, rise. «Santa addolorata! Non sono dei begli idioti gli uomini!» con tristezza. Miss Kennedy trotterellò tristemente via dalla fulgida luce, attorcendosi un capello ribelle dietro un orecchio, trotterellando tristemente, non più oro, ritorceva, attorceva un capello, tristemente attorceva, trotterellando capelli d'oro dietro un orecchio attorto. «Sono loro quelli che se la spassano», poi disse tristemente. Un uomo. Bluch passava davanti alle pipe di Molang, recando in seno le dolcezze del peccato, davanti alle antichità di Wine, in memoria recando dolci parole di peccato, davanti all'argenteria opaca ammaccata di Carol, per Raoul. Il garzone a loro nel bar, a loro bariste ne venne. Per loro di lui noncuranti sbatté sul banco il vassoio di ceramiche cerviere e «Ecco i vostri tè», disse. Miss Kennedy con creanza trasferì il vassoio su una cassetta d'acqua minerale rivoltata, lontano dagli occhi, giù. «Che c'è?» rumoroso chiese il garzone screanzato. «Indovina un po'?» ribatté Miss Deuce lasciando il suo posto d'osservazione. «Il suo bello, vero?» Un bronzo altezzoso rispose. «Ti faccio rapporto a Mrs. De Massey se sentirò ancora la tua impertinente insolenza.» «Impertinente, Grugno di garzone sbuffò villanamente, come si ritraeva, come lei minacciava, come era venuto. Bloom. Sul suo fiore accigliandosi, Miss Deuce disse: «Che irritante quel moccioso! Se non si comporta come si deve, gli tiro l'orecchio lungo un metro!» Signorile in squisito contrasto. Non ci faccia caso, soggiunse Miss Kennedy. Versò in una tazza del tè, poi di nuovo nella teiera tè. Si accoccolarono dietro alla scogliera del banco, attendendo su sgabelli, cassette rivoltate, attendendo che il tè si facesse. Si lisciavano le camicette, ambedue di raso nero, 2 scellini e 9 pence al metro, attendendo che il tè si facesse, e 2 e 7. Sì, bronzo da presso, accanto a oro da lungi, udirono acciaio da presso, zoccoli risonar da lungi, e udirono acciar di zoccoli, sonar d'acciaio. «Sono terribilmente abbronzata, vero?» Miss Bronzo si scoprì il collo. «No», disse Miss Kennedy, «diventa scuro dopo.» «Ha provato il borace in acqua di Lauro Ceraso?» Miss Deuce si alzò a metà per guardarsi di traverso la pelle nello specchio del bar, adorno di caratteri dorati. ove baluginavano bicchieri da vino del Reno e chiaretto, e in mezzo ad essi una conchiglia. «Per non parlar delle mani», disse. «Provi con la glicerina», consigliò Miss Kennedy, dicendo addio al collo e alle mani, Miss Deuce. «Quella roba fa venire uno sfogo e basta», rispose riseduta. «Ho chiesto qualcosa per la pelle a quel vecchio rimbambito che sta da Boyd». Miss Kennedy, versando un tè del tutto fatto, fece una smorfia e pregò. «Oh, per l'amor di Dio, non me lo rammenti!» «Aspetti che glielo racconti!» supplicò Miss Deuce. Versato il dolce tè, Miss Kennedy col latte coi mignoli ostruiva ambo le orecchie. «No! Oh no!» gridò. «Non voglio sentire!» gridò. «Ma Bloom?» Miss Deuce grugnì con voce stronfiante di rimbambito tabaccoso. «Per la sua che?» dice lui. Miss Kennedy si disostruì le orecchie per udire parlare, ma disse, ma pregò ancora: «Non mi ci faccia pensare o morirò, quel vecchio disgustoso, quella sera all'Ancient Concert Rooms!» Sorseggiò disgustata la sua pozione, tè caldo, un sorso, sorseggiò dolce tè. «Eccolo lì!» disse Miss Deuce, inclinando di tre quarti la bronzea testa, arricciando le pinne del naso. Uno stridulo strillo di risa sgorgò dalla gola di Miss Kennedy. Miss Deuce stronfiava su e giù per le narici che vibravano, qual grugno in cerca. «Oh!» strillando, Miss Kennedy gridò. «Si scorderà mai del suo occhio sporgente?» Miss Deuce echeggiò con profondo riso bronzo, urlando: «E quell'altro occhio?» Blu, del quale l'occhio scuro leggeva il nome di Aaron Figolter. «Perché mi viene sempre in mente Ficoltor? Raccolta dei fichi, probabilmente. È il nome d'ogonotto di Prosper Loré». Davanti alle sante vergini di Bassi passarono gli occhi scuri di Bloom. Azzurro vestita, bianca sotto. «Vieni a me. Credono che sia Dio o una dea, quelle di oggi. Non m'è riuscito di vedere quel tale che parlava, studente, dopo col figlio di Daedalus. Forse era Maligan. Tutte vergini graziose. È questo che attira tutti quei porcaccioni. Il bianco». Passavano i suoi occhi, le dolcezze del peccato. Dolci son le dolcezze del peccato. In uno scampanio di risatelle, giovani voci bronzoro si fondevano, Deuce con Kennedy, l'altro occhio. Le giovani teste all'indietro, bronzo riso d'oro, libero lasciavano volare il loro riso, gridando, l'altro, cenni scambievoli, alte note penetranti. «Ah, ansimanti, sospiranti, sospiranti!» «Ah!» spenta, la loro allegrezza smorì. Miss Kennedy labbreggiò di nuovo la sua tazza, alzata, beve un sorso e ririderellò. Miss Deuce, chinandosi sul vassoio, arricciò di nuovo il naso e roteò buffi occhi imbottiti di grasso. Di nuovo Kenny riderella, chinando le bionde guglie di capelli, chinandosi, mostrato il suo pettine di tartaruga, dalla bocca spruzzò il tè, soffocando per il tè, e il ridere, tossendo soffocata, strillando: «Occhi untuosi, pensi un po' a essere sposata a un uomo simile!» strillò. «Con quei quattro peli di barba!» Deuce diè pieno sfogo a uno splendido strillo, uno strillo pieno di donna piena, delizia, gioia, indignazione. «Sposata al naso unto!» strillò. Squillanti, con riso profondo, dopo, oro dopo bronzo, si provocarono reciprocamente ad uno scampanio dopo l'altro, risuonando alternativamente, bronzoro, oro bronzo, squillante, profondo, una risata dopo l'altra, e poi risero ancora. «So chi ha il nasocchio unto!» Esauste, senza fiato, le teste scosse appoggiarono, l'intrecciata e ingugliata presso quella dal lucido pettine contro l'orlo del banco, tutte arrossite, oh, ansimanti, sudate, oh, tutte senza fiato. Sposata a Blum, a unto Blum. Oh, Dio degli dèi! Miss Deuce disse, sospirò, al di sopra della sua rosa danzante. Ho fatto male, a rider tanto, son tutta bagnata. Oh, Miss Deuce, protestò Miss Kennedy, lei è un orrore. E arrossì ancor di più. Orrore! Ancor più dorata. Davanti all'ufficio di Cantwell vagava unto Bloom, davanti alle vergini di ceppi, splendenti delle loro tinte oleose. Il padre di Nannetti vendeva quella roba là, andando di porta in porta come me. La religione rende. Bisogna lo veda per quel trafiletto. Bisogna mangiare. Voglio. Non ancora. Alle 4, ha detto. Il tempo che passa sempre. Lancette che girano. Avanti. Mangiar dove? Il Clarence. Dolphin. Avanti. Per Raoul. Mangiare. Se racimolo 5 ghinè con quegli avvisi. Sottovesti di seta violetta. Non ancora. Le dolcezze del peccato. Arrossita meno. Sempre meno. Doratamente pallente. Nel loro bar entrò disinvolto Mr. Dedalus. Schegge, levando schegge da una delle unghie rocciose. Schegge. Entrò disinvolto. Bentornata, Miss Deuce. Le tenne la mano. Passate bene le vacanze? Fantastiche. Sperava che avesse avuto bel tempo a Ross Trevor. Magnifico, disse lei. Guardi in che stato sono. Lunga distesa sulla spiaggia tutto il giorno. Bronzeo candore. Lei è stata una gran birbona, le disse Mr. Dedalus, premendole indulgentemente la mano. Indurre in tentazione i poveri uomini ingenui. Miss Deuce, di raso, deucemente, ritirò il braccio. Ma stia un po' zitto, disse. Non mi verrà a dire di essere ingenuo, lei. Lo era. Beh, sì, lo sono, disse pensoso. Sembravo così ingenuo nella culla che mi hanno battezzato Simoncino l'ingenuo. Deve essere stato un cocco di mamma, disse Miss Deuce in risposta. Per oggi cosa ha ordinato il dottore? Beh, disse pensoso, quello che dice lei. Penso che dovrò incomodarla per un po' d'acqua fresca e un mezzo bicchiere di whisky. Tintinnio. Con la massima sollecitudine, acconsentì Miss Deuce. Con graziosa sollecitudine si volse verso lo specchio dorato Cantrele e Cochrane. Con grazia spillò dal barilotto di cristallo una misura di whisky dorato. Fuori da una falda dell'abito, Mr. Dedalus cavò pipa e borsa di tabacco. Sollecitudine e la proferì. Lui sbloccò la cannuccia con due roche note di piffero. «Per Giove», disse pensoso, «ho sempre avuto voglia di vedere i Monti Morn. Deve essere un gran tonico l'aria di lassù. Ma ogni desiderio al fin si avvera», dicono. «Sì, sì, sì», premeva col dito filamenti di capelli, venere i peli di lei, di sirena, giù nel fornello della pipa. Schegge, filamenti, pensoso, tacito. Nessuno non diceva nulla. Sì. Allegramente Miss Deuce lustrava un bicchiere trillando. Oh, ai Dolores, dei mari orientali, regina! C'è stato Mr. Lidwell oggi? Entrò Mr. Lenehan. Attorno a sé sbirciò Lenehan. Mr. Bloom giunse al ponte Essex. Sì, Mr. Bloom traversò il ponte di Sussex. A Marta bisogna che scriva. Comprare carta. Da Daily. Commessa lì cortese. Bloom. Vecchio Bloom. Blum, blu è la patina sul fior di segale. C'è stato all'ora di colazione, disse Miss Deuce. Lenehan si fece avanti. Ha cercato di me, Mr. Boylan? Egli chiese. Ella rispose. Miss Kennedy, c'è stato Mr. Boylan mentre io ero di sopra? Ella chiese. Miss Voce di Kennedy rispose, una seconda tazza di tè in bilico, lo sguardo su una pagina. No, non c'è stato. Miss Sguardo di Kennedy, udita, non vista, seguitò a leggere. Lenea, attorno alla teca dei tramezzini, girò il suo tondo corpo intorno. Cucù, chi c'è nell'angolino? Nessuno sguardo di Kennedy, ricompensandolo pure, egli fece altri approcci. Attenzione ai punti fermi. Leggere solo le nere. O tondo e S torto. Tinnulo calessino, tinnulo. Ragazza d'oro leggeva e non alzava sguardo. Non far caso. Non fece caso mentre lui solfeggiava a memoria una favoletta proprio per lei. Cianciugliando chioccio. Una volpe incontrò una cicogna. Disse la volpe alla cicogna: me lo ficchi il becco fin gola e mi tiri su un osso? Ronzava indarno. Miss Deuce si volse al suo tè fra sé. Lui sospirò fra sé. Ahimè, povero me. Salutò Mr. Dedalus e ne ebbe un cenno di risposta. Saluti dal celebre figlio di un padre celebre. Chi sarà mai? Chiese Mr. Dedalus. Lenean aprì gioviali le braccia. Chi? Chi sarà mai? Chiese. E lo chiede a me? Steven, il giovane bardo, secco. Mr. Dedalus, padre celebre, ripose la pipa piena di tabacco secco. Ah, disse. Lì per lì non l'avevo riconosciuto. Mi si dice che è sempre in eletta compagnia. È molto che non lo vede? Non era molto. Ho cioncato nettare seco lui proprio oggi, disse Lenehan. Da Mooney Anville e da Mooney sur Mer. Aveva ricevuto la grana per i servizi resi dalla sua musa. Sorrise a labbra di bronzo umide di tè, a labbra e ad occhi in ascolto. L'élite di Erin pendeva dalle sue labbra. Hugh McHugh, il ponderoso ponzatore, il più brillante scriba e giornalista di Dublino, e quel giovin menestrello dell'Ovest, umido e selvaggio, noto con l'eufonico appellativo di O'Madden Bourke. Dopo un po', Mr. Dedalus alzò il suo grog e deve essere stato divertentissimo, disse. Vedo. Vede. Beve. Con occhio lungimorente montano. Posò il bicchiere. Guardò verso la porta della sala. Vedo che avete spostato il piano. Oggi c'è stato l'accordatore, rispose Miss Deuce, ad accordarlo per il concerto pubblico e non avevo mai sentito un esecutore così squisito. Ma davvero? Non è vero, Miss Kennedy? Proprio la vera classica, sa? E anche cieco, poveretto. Non doveva avere più di 20 anni, ci scommetto. Ma davvero? Disse Mr. Dedalus. Beve e si allontanò. Che pena guardarlo in faccia. Si condolse Miss Deuce. Dio maledica il figlio d'una troia. Din, alla sua pietà, pianse in risposta il campanello di un cliente. Alla porta del bar della sala da pranzo venne il calvo Pat, venne il tribolato Pat, venne Pat, cameriere dell'Ormont. Birra bionda per cliente, bionda senza sollecitudine, ella servì. Con pazienza Lenian attendeva Boylan, boilente d'impazienza, tintinnante calessino di Blazes Boy. Alzando il coperchio, egli, chi? Guardò nella cassa. Cassa? Le oblique triple. Piano! Corde. Premette. lo stesso che le aveva premute indulgentemente la mano, pedaleggiando piano un trio di tasti per vedere avanzare i cuscinetti di feltro, per sentire il colpo in sordina dei martelletti in azione.